Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Entrai in saletta con il cuore leggero come non l'avevo da giorni. Alla credenza c'era Ransom in procinto di apparecchiare la tavola per il primo pasto della traversata. Volse il capo e qualcosa nel suo sguardo soffocò quel po' di mio entusiasmo. Chiesi istintivamente: «Che c'è?» Lungi dall'aspettarmi la risposta che mi diede, me la diede con quella specie di ponderata serenità che gli era propria. «Temo che non ci siamo lasciati alle spalle tutti i malanni, capitano». «No? Che cosa è successo?» Mi disse allora che due dei nostri uomini erano stati assaliti da violenta febbre durante la notte. Uno scottava e l'altro aveva i brividi, ma pensava che in sostanza si trattasse della stessa cosa. Lo pensavo anch'io. Quelle notizie erano un brutto colpo. «L'uno che scotta, l'altro con i brividi, dici?» «No, non ci siamo lasciati alle spalle tutti i malanni». «Sembrano stare molto male?» «Discretamente male, capitano». Ransom mi fissava dritto negli occhi. Ci scambiammo un sorriso. Un po' pensoso, come sempre, quello di Ransom, il mio piuttosto torvo, in accordo con la mia nascosta esasperazione. Chiesi: «Abbiamo avuto un po' di vento in mattinata?» «Non direi, capitano. Però siamo andati sempre avanti. A prua la terra sembra un poco più vicina». Ecco il guaio. Un poco più vicina. Mentre invece, se avessimo avuto un poco più di vento, soltanto un pochino di più, avremmo dovuto essere ormai al traverso di Liant e ci saremmo allontanati ancora più da quella costa ammorbata. Ed il guaio non stava solo nella distanza. Mi pareva che una brezza più forte avrebbe spazzato via l'infezione che stava appiccicata alla nave. Ovviamente le stava appiccicata. Due uomini, l'uno che scotta, l'altro con i brividi. Provavo una vera riluttanza ad andarli a trovare. A quale scopo? Il veleno è veleno. La febbre tropicale è febbre tropicale, ma che avesse steso il suo artiglio fino a noi, in mare, mi pareva un inaudito e sleale abuso. Potevo ritenerlo tutto al più l'ultimo disperato sforzo del male da cui stavamo fuggendo verso il puro respiro del mare. Fosse almeno stato un poco più forte quel respiro. Comunque, contro la febbre c'era il chinino. Andai nella cabina vuota dove si teneva la cassetta dei medicinali a preparare due dosi. L'aprii colmo di fede, come si apre un reliquiario miracoloso. La parte superiore era occupata da una collezione di bottiglie, tutte di forma squadrata e che si somigliavano come piselli. Sotto questo assortimento ben ordinato c'erano due cassetti, zeppi fino all'inverosimile, pacchetti, fasce, scatolette di cartone con le regolamentari etichette. Uno degli scomparti del cassetto inferiore conteneva la nostra scorta di chinino. Ce n'erano cinque bottiglie, tutte rotonde e tutte di egual misura. Una era piena fino a un terzo circa, le altre quattro erano ancora incartate e sigillate. Però non mi aspettavo di trovare una busta posata su di esse. Una busta quadrata, che apparteneva in effetti alla cancelleria di bordo. Si vedeva benissimo che non era chiusa, e nel prenderla e voltarla, scorsi che era indirizzata a me. Conteneva un foglietto di taccuino, e io lo aprii con la bizzarra sensazione di avere a che fare con l'irreale, ma senza agitazione, così come in sogno capitano e si fanno le cose più strane. «Caro capitano», era l'esordio, ma corsi subito con l'occhio alla firma. Lo scrivente era il dottore. La data era quella del giorno in cui, tornando dalla visita al signor Burns all'ospedale, avevo trovato l'ottimo dottore ad attendermi nella saletta e mi aveva detto che avevo occupato il tempo guardando se tutto era a posto nella mia cassetta dei medicinali. Che strano. Mentre aspettava di vedermi arrivare da un momento all'altro, si era divertito a scrivermi una lettera e poi, quando io ero entrato, si era affrettato a ficcarla nel cassetto dei medicinali. Un comportamento piuttosto incredibile. Pieno di meraviglia, lessi il testo. Con una grossa calligrafia, frettolosa ma leggibile, quel simpatico brav'uomo, per gentilezza o più probabilmente spinto dal desiderio irresistibile di esprimere il proprio parere senza con questo mortificare in anticipo le mie speranze, mi avvertiva di non fidare ciecamente nei benefici effetti del passaggio dalla terra al mare. «Non ho voluto accrescere le vostre preoccupazioni scoraggiando le vostre speranze», scriveva. Temo che, da un punto di vista medico, non sia ancora venuta la fine dei vostri fastidi. In breve, prevedeva che avrei avuto da combattere contro un nuovo attacco di febbri tropicali. Per fortuna, disponevo di una buona scorta di chinino. In questo dovevo riporre la mia fiducia e somministrarne senza stancarmi, così le condizioni di salute sulla nave sarebbero certamente migliorate. Spiegazzai in pugno la lettera e me la cacciai in tasca. Ransom portò due forti dosi per gli uomini a prua. Quanto a me, non salì ancora in coperta. Andai invece sulla porta della camera del signor Burns e gli diedi anche questa notizia. Non si sarebbe potuto dire quale effetto gli fece. Dapprima lo credetti ammutolito. Aveva il capo affondato nel cuscino. Mosse tuttavia le labbra quanto occorreva ad assicurarmi che stava rimettendosi in forze. Dichiarazione scandalosamente menzognera a giudicare dalle apparenze. Il pomeriggio montai regolarmente di guardia. Una grande calma surriscaldata avviluppava la nave e pareva immobilizzarla in un'atmosfera infocata composta di due toni d'azzurro. Non si sarebbe potuto dire quale effetto gli fece. Dapprima lo credetti ammutolito. Aveva il capo affondato nel cuscino. Mosse tuttavia le labbra quanto occorreva ad assicurarmi che stava rimettendosi in forze. Dichiarazione scandalosamente menzognera a giudicare dalle apparenze. Il pomeriggio montai regolarmente di guardia. Una grande calma surriscaldata avviluppava la nave e pareva immobilizzarla in un'atmosfera infocata composta di due toni d'azzurro. Dalle sue vele ricadevano debolmente lievi sbuffi caldi. Eppure essa andava avanti. Doveva essere andata avanti, perché al calare del sole eravamo passati al traverso di Capo Liant e l'avevamo lasciato dietro di noi, ombra sinistra che indietreggiava negli ultimi barlumi del crepuscolo. La sera, nella luce cruda della lampada, il signor Burns parve essere affiorato un po' di più sulla superficie del suo letto, come se si fosse sollevata una mano che prima lo opprimeva. Alle mie poche parole rispose con un discorso relativamente lungo e filato. Espose le sue ragioni con fermezza. Se riusciva a non farsi soffocare da quell'afa stagnante, disse, entro pochi giorni confidava di essere in grado di venire in coperta ad aiutarmi. Lo ascoltavo col timore che questo sfoggio di energia me lo lasciasse inanimato sotto gli occhi. Ma non posso negare che la sua buona volontà aveva qualcosa di confortante. Gli diedi una risposta appropriata, pur dichiarando che l'unico vero aiuto per noi sarebbe stato il vento, un vento favorevole. Scosse smaniosamente il capo sul cuscino, e non fu affatto confortante, alla fine, udirlo mettersi a mormorare vaneggiamenti sul defunto capitano, quel vecchio seppellito a 8 gradi e 20 primi di latitudine, proprio sulla nostra rotta, in agguato all'imboccatura del golfo. «Pensate ancora al vostro defunto capitano, signor Burns?» dissi. «Ho idea che i morti non sentano animosità nei confronti dei vivi. Non gliene importa nulla.» «Non conoscete quello?» sospirò fievolmente. «No, non l'ho conosciuto ed egli non mi ha conosciuto e quindi non può nutrire alcun rancore contro di me, in ogni caso.» «Sì, ma a bordo ci siamo tutti noi altri», insistette. Sentì insidiosamente minacciata la forza inespugnabile del buonsenso, da quella macabra, da quella insana allucinazione, e dissi: «Non dovete parlare tanto, vi stancherete.» «E poi c'è la nave stessa», proseguì in un bisbiglio. «Su, non una parola di più», dissi, entrando e posandogli la mano sulla fronte fresca. Ciò mi diede la prova che quell'atroce assurdità aveva radice in lui stesso, non nella malattia, che evidentemente lo aveva svuotato di ogni forza mentale e fisica, ad eccezione di quell'unica idea fissa. Nei giorni immediatamente successivi, evitai di dare al signor Burns l'occasione di discorrere. Mi limitavo a gettargli frettolosamente una parola cordiale nel passare dinanzi alla sua porta. Credo che se ne avesse avuto la forza, più di una volta mi avrebbe chiamato. Ma non ne aveva la forza. Ransom, però, mi espresse un pomeriggio il parere che il secondo stava rimettendosi a meraviglia. «Ti ha fatto qualche discorso strambo ultimamente?» chiesi in tono distratto. «No, signore.» Ransom era scosso da quella domanda diretta, ma dopo un breve silenzio aggiunse con voce uguale: «Stamattina, capitano, mi ha detto che gli dispiaceva di aver dovuto seppellire il nostro defunto capitano proprio sulla rotta della nave, fuori del golfo.» «E non ti pare abbastanza strambo?» chiesi, guardando con fiducia quell'uomo dal volto tranquillo e intelligente, appena velato dalla preoccupazione della segreta malattia che gli si annidava nel petto. Ransom non avrebbe saputo dire, non ci aveva nemmeno pensato, e con un lieve sorriso scappò a badare alle sue interminabili incombenze con la solita vigile alacrità. Passarono altri 2 giorni. Eravamo andati un po' più avanti, molto poco, nella zona più ampia del Golfo del Siam. Pur tenendo ben stretta la gioia di quel primo comando che, per intromissione del capitano Gilles, mi era stato gettato in grembo, mi turbava un poco l'impressione che una fortuna simile la si dovesse forse pagare in qualche modo. Con animo professionale avevo fatto il calcolo di tutte le mie probabilità. A ciò poteva bastare la mia competenza. Così almeno credevo. Io avevo quella coscienza totale della mia preparazione che soltanto può avere chi si dedica a una vocazione amata. A me quel sentimento pareva la cosa più naturale del mondo. Naturale quanto il fatto di respirare. Ritenevo che senza di esso non sarei riuscito a vivere. Che cosa mi aspettassi non lo so. Null'altro forse che quella particolare intensità di vita che è la quintessenza delle aspirazioni giovanili. Non mi aspettavo comunque un assalto dei cicloni. Sapevo come stavano le cose. Non ci sono cicloni nel Golfo del Siam. Però non mi aspettavo neanche di trovarmi legato mani e piedi sino a quel disperato limite che mi si rivelò col passare dei giorni. Non è a dire che il malefizio ci tenesse sempre fermi. Correnti misteriose ci facevano derivare qua e là con una forza furtiva che si manifestava col cambiare della vista di tutte quelle isole che sfrangiavano le coste di Levante del Golfo. Ed inoltre c'erano dei venti capricciosi e ingannevoli. Destavano speranze precipitandole subito nel più amaro disappunto. Erano promesse di andare avanti che si risolvevano in cammino perduto, che si spegnevano in sospiri, che si estinguevano in una muta immobilità, lasciando che le correnti facessero ciò che volevano, che ostilmente volevano. L'isola di Coring, una cresta nera, grande, torreggiante tra un mucchio di isolotti, stesa sull'acqua vitrea come un tritone fra i pesciolini, pareva il centro di quel cerchio funesto. sembrava che fosse impossibile scostarsene. Giorno dopo giorno restava in vista. Più di una volta, mentre spirava una brezza favorevole nel rapido declinare del crepuscolo, ne presi il rilevamento pensando che era l'ultima volta. Vana speranza. I salti di vento di una nottata annullavano i progressi fatti momentaneamente, ed il sole nascente stagliava il nero rilievo di Coring, più brulla, inospitale e torva che mai. «Parola mia, par d'essere stregati», dissi una volta al signor Burns dalla mia solita posizione nel vano della porta. Era seduto sulla sua cuccetta. Stava tornando verso il mondo dei vivi, anche se non si poteva dire che l'avesse ancora raggiunto. Annuì, facendo un cenno di assenso pieno di sagacia e di mistero con il suo cranio fragile e scarnito. «Oh sì, lo so ciò che intendete», disse. «Ma non potete chiedermi di credere che un morto abbia la forza di sgangherare la meteorologia di questa parte del mondo. Anche se sembra andata davvero a catafascio. Le brezze di terra e di mare si sono sbriciolate. Non possiamo fidarcene per 5 minuti di fila». «Non mi ci vorrà molto ormai per salire in coperta», borbottò il signor Burns. «E allora vedremo». Non saprei dire se quella frase fosse una promessa di combattimento contro la malvagità soprannaturale. Comunque non era il genere di aiuto di cui avevo bisogno. D'altra parte, avevo vissuto in coperta praticamente notte e giorno per approfittare di ogni occasione di portare la mia nave un po' più a sud. Ma vedevo che il mio primo ufficiale era ancora estremamente debole e non ben guarito di quella sua idea fissa, che a me sembrava unicamente un sintomo di malattia. In tutti i casi non si dovevano scoraggiare le speranze di un infermo. Dissi: «Sarete più che il benvenuto, vi assicuro, signor Burns. Se continuate a ristabilirvi con questo ritmo, sarete quanto prima uno degli uomini più sani a bordo». Ciò gli fece piacere. Ma la sua estrema magrezza convertì il suo sorriso lusingato in una spettrale esposizione di lunghi denti sotto i baffi rossi. «Non migliorano gli uomini, capitano», chiese brevemente, con un'espressione assai ragionevole di ansietà sul volto. Gli risposi solo con un gesto vago e mi tolsi dalla porta. Il fatto era che la malattia giocava con noi non meno capricciosamente dei venti. Saltava dall'uno all'altro, in forma più leggera o più grave, ma che sempre lasciava il segno, facendo vacillare alcuni, mettendo altri fuori combattimento per un certo tempo, lasciando questo per riprendere un altro, così che adesso tutti avevano un aspetto malaticcio e negli occhi uno sguardo apprensivo, smarrito. E intanto Ransom ed io, gli unici due completamente immuni, giravamo assiduamente tra loro a distribuire chinino. Era una duplice battaglia. Di fronte ci impegnava il tempo avverso e da tergo premeva la malattia. Debbo dire che erano marinai molto in gamba. Affrontavano di buona lena la costante fatica di orientare i pennoni, ma non avevano più alcuno scatto nelle membra e osservandoli dal casseretto non riuscivo a togliermi dalla mente l'orribile impressione che si muovevano in un'aria intossicata. Da basso, nella sua cabina, il signor Burns aveva fatto tali progressi da riuscire non solo a stare seduto, ma anche a piegare le gambe. Stringendosi le ginocchia con le braccia scarne, come uno scheletro vivente, emetteva profondi sospiri di impazienza. «Tutto sta, capitano», continuava a ripetermi se appena gliene lasciavo l'occasione. «Tutto sta nel portare la nave oltre gli 8 gradi e 20 primi di latitudine. Passati quelli, siamo a posto». Dapprima mi limitavo a sorridergli, anche se lo sai Dio, non avevo tanta voglia di sorridere. Ma infine perdetti la pazienza. «Ma sì, latitudine 8 gradi 20 primi, dove avete seppellito il defunto capitano, no? Poi, con severità, non credete, signor Burns, che sia l'ora di smetterla con questa sciocchezza?» Roteò verso di me gli occhi infossati, lanciandomi uno sguardo invincibilmente ostinato. Ma poi mormorò solennemente, con appena quel tanto di voce da farsi sentire, qualcosa come: «Non sorprendetevi. Vedrete, ci giocherà ancora qualche brutto tiro». Episodi del genere non erano troppo salutari per la mia fermezza. In me il peso dell'avversità cominciava a farsi sentire e contemporaneamente disprezzavo quella mia segreta debolezza d'animo. Mi ripetevo, sdegnato, che ci voleva ben altro per intaccare minimamente la mia saltezza. Ignoravo allora quanto presto e da quale inattesa direzione doveva venire aggredita la mia saltezza.